Essere e benessere di Nicoletta Carbone. E siamo qui, di corsa, tirati, affaticati, preoccupati, in una parola, stressati, ciascuno per i problemi suoi, ma tutti per la crisi che non molla. Questa è la situazione. La conosciamo, ma forse quello che ci sarebbe utile conoscere è trovare delle strategie per rimanere in equilibrio, per non perdere il controllo, per non farsi travolgere. Ce la possiamo fare, ma dobbiamo essere pronti e disposti ad effettuare dei piccoli cambiamenti che non produrranno soluzioni per i nostri problemi, non ci faranno trovare lavoro, né soldi, né l'amore, ma presiederanno il nostro benessere. E con un corpo e una mente sani, i problemi si affrontano, soprattutto si vedono sotto un'altra luce. Non ho formule magiche per voi, ma consigli di buon senso con il placet della scienza. Alzi la mano chi non soffre lo stress. Possiamo anche toccarlo con mano, anzi bastano due dita e un polso. Noi abbiamo tutto l'occorrente, in linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Massimo Gualerzi. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie. È cardiologo della Fondazione Don Gnocchi di Parma all'università ed esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica e autore con Claudio Rinaldi di un libro molto interessante che ho letto e che mi è piaciuto e quindi mi sento di consigliarvi, che si intitola Super Salute. Dottor Gualerzi, ho finito di presentarla, non la presento più perché ci sono tre righe di devo prendere fiato, ma intanto che prendo il fiato io ho detto che lo stress possiamo toccarlo con mano, anzi con due dita, dottore. Sì, si può sentire e toccare proprio in questo caso. Diciamo che uno, soprattutto per noi cardiologi, uno dei modi più semplici per valutare lo stress è proprio quello di sentire con due dita le nostre pulsazioni. In realtà, ahimè, queste si fanno ogni anno più alte e sono un po' lo specchio della nostra attivazione. Le faccio un esempio: se in realtà avessimo percepito, sentito il polso delle persone come noi, della nostra età, di qualche anno fa, circa una ventina di anni fa, avremmo trovato le pulsazioni sicuramente più basse, anche 15 o 20 battiti in meno. Oggi, per stare in questa situazione di iperattivazione, dove dobbiamo essere sempre iperpresenti, sempre attenti a tutto, diciamo il prezzo che dobbiamo pagare è quello di aumentare le nostre pulsazioni. Ecco che non è, diciamo, così tanto infrequente trovare le pulsazioni anche 80, 85, addirittura 90, anche quando siamo a riposo, e questo non è una cosa normale, depone per una sorta di attivazione del nostro sistema nervoso autonomo che ci appunto aumenta i battiti. E uno potrebbe anche dire: chi se ne frega. In realtà, no, di avere i battiti così alti. Però questo è un problema, è l'inizio di un problema. Lei pensi che ad esempio nel regno animale vediamo che gli animali che hanno le pulsazioni più alte sono quelli che muoiono prima, ad esempio il topolino sappiamo che ha circa 240 battiti e vive pochi mesi. Quindi abbiamo un tot di battiti, finito, esaurito quello, siamo finiti. Ma in realtà sembrerebbe anche così, cioè molti autori anche in ricerche recenti hanno proprio scoperto questo: avremo un numero finito di battiti e prima li esauriamo peggio è. È un po' come un motore di un'automobile che, diciamo, più ha un tot di chilometri da fare prima dell'esaurimento, e questo sembrerebbe vero anche per il cuore. Sicuramente le pulsazioni a riposo sono quelle più, cioè le pulsazioni alte a riposo sono quelle più dannose, non quelle ad esempio sotto sforzo, come uno dice: allora sto sempre a letto, così le pulsazioni non mi si alzano. In realtà, non vale. Stiamo parlando di frequenza alta quando siamo a riposo, quindi avere i battiti alti quando siamo in condizioni di quiete. Ecco, se quindi possiamo dire, dottor Gualerzi, ai nostri ascoltatori, se sono in un momento di tranquillità, se stanno ascoltando il programma magari seduti, tranquilli, possono misurarsi le loro pulsazioni, 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde, come sempre potete seguirci su Facebook, mandarci dei messaggi al 349 238 6666, potete anche naturalmente seguirci su Twitter l'hashtag di oggi è dieta antistress. E qui in studio con me, forse ha misurato, non l'ho tenuto sotto controllo, c'è il dottor Ongaro, forse ha misurato i suoi battiti, è attivato, dottor Ongaro. Attivatissimo, contento di essere qua, buongiorno a tutti. È una festa. E devo dire che sì, il discorso del battito cardiaco e l'aumento della frequenza cardiaca a riposo è forse uno dei più comuni segni di stress e di agitazione, però in realtà ce ne sono molti altri, per esempio i sintomi tipici della colite, i crampi, il gonfiore addominale, la gastrite, tutte le infiammazioni dell'apparato digerente in qualche modo si legano allo stato di stress delle persone. E non è un caso, Nicoletta, perché abbiamo detto tante volte che cuore e intestino sono estremamente connessi con il cervello, sono tessuti molto ricchi di neuroni e sono in qualche modo influenzati dallo stato emotivo in cui ci troviamo. Quindi cuore e intestino sono i primi sistemi in qualche modo a diventare meno funzionali quando siamo in uno stato cronico di stress e di tensione. E quindi accusare i danni che provoca lo stress. Se potessi avere 2500 euro al mese, sarei un uomo più cortese. Da Facebook ci scrive Simona a proposito della puntata dove si parla di alimentazione e di stress. Che ne dite degli effetti che ha lo stress sull'apparato digerente causando, dottor Ongaro, lei lo anticipava, attacchi di colite, sindrome del colon irritabile? In questi casi qual è l'alimentazione giusta da seguire durante e dopo per ristabilire l'equilibrio? E forse noi dovremmo dire anche prima per prevenire. Allora, che cosa ha prodotto in voi lo stress? Dove si fa sentire? Come vi ha cambiato? 800 24 00 24. Dottor Ongaro, io ho capito questo: lo stress ci infiamma, è corretto? E questa infiammazione la avvertiamo in modo più o meno chiaro a seconda dei distretti, chiamiamoli così, colpiti. Simona ha portato proprio il dito lì dove lei aveva così catturato la nostra attenzione. Pancia, quindi stomaco, intestino, spesso sono il primo luogo in cui noi avvertiamo l'effetto dello stress. Sì, l'infiammazione è una delle risposte che si accende in maniera più vivace e forte con lo stress ed è anche sicuramente una delle più nocive. Colpisce il tratto gastrointestinale, abbiamo parlato appunto di questi sintomi che citava anche l'ascoltatrice, però non colpisce solo quello. Perfino patologie come l'Alzheimer, abbiamo scoperto anche nella tua trasmissione, Nicoletta, che ha una connessione con l'infiammazione e dunque un qualche legame con lo stress e lo stile di vita. C'è anche da dire un'altra cosa: lo stress altera anche il comportamento alimentare, altra cosa di cui abbiamo parlato spesso, cioè sotto stress come mangiate? Vi ritrovate in qualche modo ad accumulare errori alimentari e chili di troppo perché siete sotto stress e il cibo diventa un elemento di conforto? Quindi vedi che i legami tra stress, cibo, tratto gastrointestinale e altri organi e sistemi del nostro corpo è molto molto stretto. 800 24 00 24, se volete raccontarci di voi, di come reagite allo stress e di come lo stress vi cambia, se ad esempio notate, come sottolineava il dottor Ongaro, una variazione di peso magari conseguente ad un periodo particolarmente stressante. Ma dottor Gualerzi, l'infiammazione di cui stiamo parlando è un po' come un fuoco, si allarga, va a interessare anche le arterie, anche se a differenza di stomaco e di intestino noi non avvertiamo bruciore. Sì, e questo da una parte è un problema, perché quando abbiamo il bruciore di stomaco, ad esempio la colite, ci allarmiamo e quindi magari cerchiamo delle contromisure. In realtà l'infiammazione si sposta anche sulle arterie e banalmente, o comunque non così banalmente, l'aterosclerosi è un processo di degradazione e di infiammazione dell'arteria stessa. Quindi l'infiammazione è lo stimolo che provoca e inizia il fenomeno aterosclerotico, quindi da lì inizia questa degradazione delle arterie che poi può portare, se perdura nel tempo, a malattie conclamate. È logico che in questo caso non abbiamo e non percepiamo lo stesso fastidio che si ha quando abbiamo, ad esempio, come abbiamo detto, la colite o la gastrite. Però appunto, quindi l'allarme deve nascere da sintomi surrogati, come abbiamo detto prima, ad esempio come questa costante pesante tachicardia o come gli altri sintomi che sono stati detti anche dal dottor Ungaro adesso, quindi ecco, non preoccupiamoci solo di dove sentiamo il problema, ma immaginiamo che l'infiammazione colpisce un po' tutte le nostre componenti, tutti i nostri organi. Dottor Gualerzi, questo dei battiti ha attivato per l'appunto i nostri ascoltatori, arrivano tanti messaggi al 349-238-6666, ad esempio Giacomo invece ci scrive: a volte ho 48 battiti al minuto e mi preoccupo, ho 38 anni, sono bradicardico, è un difetto? Noi abbiamo parlato dello stress che invece aumenta il numero dei battiti. Beh, no, in realtà la bradicardia è la tipica, cioè avere i battiti bassi è la tipica cosa che ad esempio è la conseguenza di un buon allenamento. È logico che anche in questo caso averceli troppo bassi non è bene, ma può essere anche un sinonimo di iperallenamento, però in questo caso dell'ascoltatore mi sembra che va bene. Va bene, tranquilli. Tranquilli. Serena ci scrive a proposito di stress, no? Un po' di tranquillità, lei lo suggerisce anche nel suo libro Super Salute, regalarsi degli spuntini di respiro, che sono momenti di breve meditazione, di relax, che lei anche negli schemi alimentari che suggerisce nel libro, dottor Gualerzi, distribuisce un po' nel corso della giornata, come proprio rimedi antistress. Beh, oggi è un lusso riuscire a prendersi qualche minuto, però è un obbligo quasi che abbiamo e lo dobbiamo a noi stessi, insomma, riuscire a togliersi tre minuti di tempo per noi, anche per respirare, per entrare in contatto col nostro sentire, per gustare proprio quando diciamo tirare un sospiro di sollievo, noi in realtà diciamo quindi respirare profondamente, questo può essere una mossa molto semplice, molto banale, ma che ha un'importanza enorme anche in ottica di antinfiammazione. Serena, dottor Ongaro ci scrive: il nostro stile di vita è frenetico, fa aumentare il battito cardiaco, ma nello stesso tempo si vive più a lungo rispetto al passato. È curioso questo aspetto. Beh, è un tema molto complesso su cui varrebbe la pena magari di fare una puntata ad hoc. Facciamo un puntatone, però. Perché sì, è sicuramente vero, bisogna capire bene però i motivi di questo e soprattutto bisogna analizzare se è vero anche in termini di anni vissuti in salute, in piena autonomia e funzionalità oppure no. Quindi è un tema molto interessante. Non solamente anni alla vita, ma vita a quegli anni. Esatto. Bernardino, buongiorno da Ascoli Piceno e poi abbiamo Laura da Milano. Bernardino. Buongiorno. Buongiorno. La chiamano Dino? Sì. Immaginavo. Io volevo solo dire che da quando mi ricordo ho sempre a riposo i battiti che oscillano da 48 a 50. Adesso ho 60 anni, diciamo, sono rimasti sempre invariati. La cosa è positiva o negativa? Dottor Gualerzi, è lei il cardiologo? Essere bradicardici è un'ottima cosa, quindi è un gran pregio che lei ha ed è un segno di equilibrio. Quello che volevo far notare anche al radioascoltatore di prima è che una cosa è avere la frequenza bassa a riposo, un conto è che non si alzi quando facciamo delle attività. Esatto. Quindi un altro modo per valutare l'efficacia, l'efficienza e la bontà del nostro sistema cardiovascolare è proprio andare a valutare se quando ci attiviamo e facciamo sport queste pulsazioni salgono. Più fluttuano in base alle nostre emozioni e alle nostre attività, meglio è. Quindi la frequenza cardiaca deve essere proprio un sistema duttile e malleabile in un certo senso, che è in grado di modificarci con le nostre emozioni e con le nostre attività. Quindi è giusto avere le pulsazioni basse a riposo, è giusto alzarle quando si fa sport o ci si emoziona. Laura da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, benvenuta. Grazie. Io ho chiamato perché sentendo questo argomento mi è venuta, diciamo, tornata alla mente un periodo un po' brutto della mia vita, in cui ho avuto per anche 2 o 3 anni, quindi stiamo parlando di un periodo abbastanza lungo, uno stress molto prolungato sul lavoro, dovuto a mobbing, insomma una situazione un po' stressante, pesante da sostenere. E diciamo che i sintomi immediati, visibili, erano stati appunto problemi gastrici, di intestino, è stata una cosa veramente indicibile. Sai che l'intestino è il nostro secondo cervello e lì somatizziamo. Sì, ma ne ho avuto proprio riscontro diretto, era una cosa incredibile. Io mi alzavo la mattina e per dovevo alzarmi almeno un paio di ore prima, perché io per almeno un'ora non potevo uscire. Laura, adesso piano piano mi sembra anche dal tono della sua voce, da come racconta questo episodio, questo periodo della sua vita, che l'abbia un po' superato. Sì. Oramai sono, da allora sono già passati quasi 5 anni. Però un'altra cosa mi è capitata. Quelli erano i sintomi più visibili. In realtà, sempre in quel periodo io ho cominciato a sentirmi improvvisamente stanca. Mi svegliavo tutta gonfia in faccia. Mi gonfiavo anche io e non riuscivo più a perdere peso. Sì. E lì hanno cominciato a farmi tutta una serie di esami e praticamente a un certo punto prima mi dicevano che era solo stress, esaurimento, eccetera. Invece mi hanno spiegato poi che mi hanno riscontrato la tiroidite di Hashimoto. Hanno spiegato che poteva essere una causa infettiva su cui in realtà hanno indagato, ma hanno anche supposto una interazione con lo stress. Sì, dottor Ungaro, abbiamo parlato di infiammazione, lo stress ci fa perdere proprio l'equilibrio, è come se la nostra macchina andasse in panne, la storia di Laura lo dimostra, sintomi a livello gastrointestinale anche molto pesante, e poi questa tiroide che si mette improvvisamente a non funzionare in modo adeguato. Sì, credo che la storia di Laura sia abbastanza esemplificativa di una situazione protratta di stress da questo punto di vista psicologico, che però poi piano piano si manifesta a vari livelli nel nostro organismo. L'ultimo aspetto di cui parlava Laura, la tiroidite di Hashimoto, è una tiroidite autoimmune e quindi è in sostanza un'attivazione del nostro sistema immunitario contro il tessuto tiroideo. È possibile ipotizzare che ci siano dei legami tra lo stress sostenuto nel tempo e un'attivazione anomala del nostro sistema immunitario, che è una delle prime linee di difesa che l'organismo mette in atto quando si trova in una situazione di difficoltà. Quindi in questo caso era la tiroide di Laura che le provocava delle variazioni di peso, ma spesso, e lo diciamo spesso tra noi donne, diciamo ho preso dei chili, sono così stressata, perché lo stress provoca infiammazione e questa infiammazione ci fa ingrassare o mangiamo di più, ce lo spiegate tra poco. E vado su. Uno zerbino che ti dice quanto pesi. Il tuo peso è... Scendi, scendi! E poi ancora su. E tu che dieta fai? Nessuna dieta, perché a casa mia si mangiano normale. Cioè? Pasta e fagioli, brodo di polipo, polli petti con olive e chiapparielli, zuppa di carne cotta, la fuva, il micellello e olio, carne di porco, soffitto, piselli, uova. Dottor Ungaro, lo stress ci fa mangiare di più o ci fa assimilare di più? Lo chiedo a lei e voglio coinvolgere naturalmente il dottor Gualerzi. Dottor Ungaro. Beh, direi che ormai è assodato che lo stress ci fa ingrassare. In realtà i motivi sono vari. Da un lato ci spinge sicuramente ad uno stile alimentare meno attento e più disordinato, spesso alla ricerca di gusti molto forti, come i gusti salati o il grasso, l'eccesso di zucchero, che ovviamente si traduce in un surplus di calorie. Ma poi quello che dicevo prima, cioè la ricerca del cibo con azione calmante che ci fa aumentare le dosi, e infine lo stress, creando una situazione di produzione eccessiva di un ormone che si chiama cortisolo, manda al corpo un segnale che è quello di trattenere il grasso accumulato. Quindi perdere peso in una situazione di stress, ricordiamo che spesso le diete eccessive falliscono perché sono un agente stressante di per sé, quindi mi metto troppo sotto stress e anche se tiro la cinghia sulle calorie, poi il corpo non molla il grasso che ha accumulato, quindi sicuramente c'è una relazione molto stretta tra stress e sovrappeso. Dottor Gualerzi. Sì, assolutamente, quello che dice il dottor Ungaro è vero, e vorrei aggiungere che in più sotto stress produciamo un altro ormone chiamato neuropeptide Y, che è proprio quello che giustifica quel strano modo di ingrassare che abbiamo sotto stress. Me lo dice di nuovo questo ormone detestabile? Sì, si chiama neuropeptide Y, e ha, come tutte queste sostanze, spesso dei nomi un po' improbabili, ma comunque si chiama in questo modo, è stato battezzato così, e sarebbe quello responsabile sotto stress appunto di portare il nostro grasso laddove non ci piace, cioè ad esempio nella pancia, ed è anche uno dei motivi per cui oggi ingrassiamo in modo tendenzialmente diverso rispetto a qualche anno fa. E alcune persone, al contrario, possono dire che lo stomaco gli si chiude sotto stress, In questo caso comunque il dimagramento che avviene nei periodi di stress è un dimagramento non fisiologico, spesso coinvolge più le masse magre, quindi i muscoli, rispetto al grasso, si finisce per essere più grassi in percentuale, più flaccidi e con meno muscoli. Cioè, in un modo o nell'altro lo stress impatta in modo assolutamente negativo sul nostro metabolismo e sul nostro modo di essere, di vivere e di sentirci, ecco. Però c'è una buona notizia. Tutto questo si può prevenire e contrastare in modo facile e anche piacevole. State pronti, perché tra poco gli ingredienti della ricetta antistress. Adesso noi andiamo a sentire i mercati, poi il meteo, poi di nuovo torniamo insieme. Intanto voglio leggervi, prima di dare la linea ai mercati, un post di Facebook firmato da Bea Sam, che ci scrive la sua ricetta antistress: yogurt bianco senza grassi e mastico gomma senza zucchero. Aspetto naturalmente anche le vostre ricette antistress. Parliamo di dieta, ma non solo, parliamo anche di attività fisica, di attività che in qualche modo riescono a tenere sotto controllo lo stress, ma vogliamo parlare con voi anche degli effetti che lo stress ha prodotto su di voi, dai disturbi gastrointestinali, mal di testa, attivazione magari di disturbi cutanei. Me le state scrivendo in tanti. La parola chiave è, la parola chiave di oggi, ma dovrebbe essere la parola chiave del nostro stile di vita, è ridurre l'infiammazione. Essere e benessere. Obiettivi di un'estate, di esplosioni addominali, e dovrei abbronzarmi un po', scatenarmi nei dance floor, eliminare le occhiaie. Manco di concentrazione, non ho volontà. Allora, se soffrite come me lo stress, rimaniamo insieme. 800 24 00 24 oggi dal dottor Ongara, dal dottor Gualerzi, che è in linea con noi. Cerchiamo di raccogliere, di farci dare tutte le informazioni necessarie per ritrovare l'equilibrio. Ce la possiamo fare, dobbiamo farcela. Ecco, quindi aiutiamoci un po' fra tutti. Gabriella ci chiama dalla provincia di Lecco, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, sono Gabriella e chiamo perché appunto volevo chiedere che attinenze, che relazione ci può essere tra le pulsazioni di cui avete parlato un attimo fa e la pressione arteriosa in innalzamento a seguito magari di un grandissimo stress, anzi prima uno shock e dopo quindi uno stress, perché io mi sono trovata in questa situazione. Normalmente io sono bradicardica, non ho mai avuto problemi di pressione. E invece dopo questo grande shock che ho avuto, e ho scoperto di avere la pressione alta perché avevo avuto per tanti giorni di seguito un mal di testa molto forte, e mi è venuto il sospetto che potesse essere la pressione. Ecco, e volevo capire appunto l'attenenza. Qual era? Anche Gabriella, con questa domanda fa felice il dottor Gualerzi. Dottore, allora no. pressione, stress, cuore, battiti? Sì. Battiti no, sono un po' tutti logicamente collegati. Se noi ci misurassimo la pressione sotto uno stress acuto, questa sarebbe sicuramente alta. È quella che si prova quando si viene detti, si va dal dottore, ci si misura la pressione e dice ce l'ho più alta da lei rispetto a quando me la misura a casa. Questo è il fenomeno che diveniamo. È logico che, come sta saltando fuori questa discussione, questi problemi che inizialmente sono in un certo senso transitori, momentanei, poi possono esitare in una situazione conclamata come un rialzo pressorio indipendente poi dallo stress che è presente. Quindi a forza o di vivere situazioni stressanti o per vivere continuamente una situazione stressante, la pressione può rimanere costantemente alta. L'attivazione è sia in questo caso sui battiti sia sulla pressione, questa è una delle cose che più frequentemente vediamo. Se un medico è bravo, in realtà, come tanti lo sono, bisognerebbe curare più la causa che l'effetto, e non dico di non curare la pressione, dico sicuramente di porre anche un occhio a ciò che l'ha stimolato, l'ha fatta crescere. Ecco. E anche la dieta, noi di solito al giovedì no, mettiamo un po' a punto e parliamo di stile alimentare. Il dottor Ongaro aiuta sia le persone che soffrono di pressione alta, ma soprattutto le persone che soffrono lo stress. Nel libro il dottor Gualerzi, Super Salute, ricordo il titolo, ne parla, ed è una ricetta che a Mangia con me abbiamo più volte sottolineato e sperimentato per così risolvere una serie di problemi. La ricordiamo che è una ricetta che ci porta ad esempio a consumare più cereali integrali. Beh, sicuramente il cibo diventa un'arma fondamentale non solo per la gestione della pressione arteriosa, questo è noto da molto tempo, ma anche per la gestione dello stress. Aumentare l'introito di acidi grassi polinsaturi dal pesce azzurro, dalla frutta secca, utilizzare l'olio d'oliva, scegliere i cereali integrali abbassando così l'indice glicemico, selezionare molto bene la fonte di proteine e utilizzarla nelle dosi giuste, sono tutti diciamo strategie alimentari che nel tempo possono contribuire anche a ridurre lo stress. Vorrei aggiungere rapidissimamente una cosa, Nicoletta. Sì. La reazione allo stress è una reazione normale, quello che stava dicendo adesso il dottor Gualerzi è da sottolineare, cioè dobbiamo andare a monte dei problemi. La risposta di ipertensione ad una situazione da stress è una risposta logica dal punto di vista dell'organismo, quindi se noi tamponiamo soltanto l'ultimo anello della catena, cioè l'ipertensione, che è una cosa che va fatta, dobbiamo farlo, però non stiamo lavorando sulla causa originaria. Quindi ricordiamo anche la sfera psicologica, le tecniche di rilassamento. Andare a monte significa affrontare i problemi con un'ottica diversa. Andiamo ad Arezzo, c'è Giancarlo. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde per parlare della dieta antistress, che è anche l'hashtag di oggi. Giancarlo, benvenuto e buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. E in parte mi ha risposto un po' a quello che chiedevo il dottore alla signora che mi ha preceduto, però ecco, io volevo un parere per quanto riguarda lo stress, appunto, che io ne soffro un po', da un po' di tempo, e credo di essere forse al limite della norma. Se è il caso magari di intervenire con qualche farmaco oppure se cercare di tenerlo sotto controllo magari senza farmaci, ecco. È questo che vorrei capire, perché io sono una persona che vede il bicchiere sempre un po' mezzo vuoto, sono molto sensibile, quindi sono portato ad avere uno stato d'animo sempre, come dire, di tensione. Sì. E a volte quel respiro profondo che magari serve ad una persona non riesco. Ma sai che Giancarlo, però si può imparare, eh? Piano piano si può imparare. Ecco, bisogna iniziare a metterci in quest'ordine di idee qua. La crisi ha, se vogliamo, non ha vantaggi, ma ha questo, se ci spinge a fare dei piccoli cambiamenti. Dobbiamo farli per provare ad affrontare la situazione con un altro passo. Da qua non possiamo uscire. Siamo veramente costretti, ma poi scopriamo che siamo anche fatti per affrontare il cambiamento. Dottor Ongaro. No, credo assolutamente di sì. Ci sono ovviamente quei casi in cui è necessario ricorrere ai farmaci, agli ansiolitici, ma insomma in generale credo che sarebbe più utile cominciare a ragionare in questi termini, ad affrontare lo stress in maniera diversa dal punto di vista percettivo e psicologico, e sono assolutamente d'accordo, ci sono molte tecniche che si possono imparare, dal training autogeno alle tecniche di respirazione addominale, allo yoga, e ci sono anche dei rimedi fitoterapici, quindi delle piante che possono essere molto utili nella gestione dello stress, il ginseng, la rhodiola rosea per esempio, l'ashwagandha che è usato molto nella medicina ayurvedica, sono tutte piante che aiutano a compensare nei momenti di grande stress. Dottor Gualerzi, a proposito, nel suo, posso chiamarli schema alimentari che suggerisce nel suo libro, proposte di... Lei ogni mattina inizia con acqua e aceto biologico di mele. Perché proprio l'aceto è di mele? È un'altra bevanda che mi ha incuriosito, perché è proprio una costante. È un'abitudine. Lei nel suo libro parla, no, di inserire delle abitudini piacevoli nel corso della nostra giornata, nuove rispetto a quelle che abbiamo sempre magari seguito. E un'altra bevanda è il tè bancia. Sì, sono due sostanze logicamente, come si capisce, assolutamente naturali. Per quanto riguarda l'aceto di mele, c'è un molto fermento anche scientifico, perché dal 2001 in avanti sono usciti diversi lavori. È un naturale antiossidante, sicuramente questo è assodato, e anche assodato che contiene molti minerali come il potassio, il calcio, la vitamina A, il magnesio, altre vitamine come la vitamina C, la vitamina B, e quindi è più digeribile degli altri, ad esempio dell'aceto di vino, e ha un pH anche molto differente, e vi dicevo, ci sono tanti studi che depongono a suo favore come capace di ridurre il diabete, di abbassare la pressione, di ridurre il colesterolo. Iniziare la mattina con acqua, quindi idratandosi con l'aggiunta di questa sostanza, in due cucchiaini, quindi non alterano nemmeno troppo il sapore dell'acqua, è comunque gradevole, può aiutare appunto a iniziare a attivare il metabolismo, a metterlo in moto, e quindi un modo per sbloccare anche quella situazione, questo metabolismo che lo stress, tra l'altro abbiamo già detto, l'ha un po' addormentato. Quindi è anche più difficile, ecco, dimagrire proprio per questo, abbiamo il metabolismo un po' addormentato. Lo stesso verso per il tè. Del tè conosciamo tutti i benefici, anche questo è, diciamo, ricco di vitamine, di antiossidanti. Il vantaggio del tè bancia, che comunque è anche il tè naturale, che differenzia dagli altri per la raccolta, una raccolta tardiva che viene a ottobre, ma non ha delle caratteristiche molto diverse, se non per il fatto che contiene pochissima, quasi niente teina, che è la sostanza più stimolante, come la caffeina, quindi per dire, è indicato anche nei bambini. Non dà quegli effetti appunto di aumentare la frequenza cardiaca o di aumentare il sistema nervoso autonomo, quello appunto che abbiamo detto fino adesso si attiva con lo stress, quindi assomma i benefici degli altri tè senza dare l'effetto attivante, non contenendo teina, ecco. Allora, questi sono già sicuramente degli ingredienti che noi possiamo inserire nella nostra lista della spesa antistress, ma la lista naturalmente verrà arricchita subito dopo le informazioni sul traffico. Ci ha raggiunto il dottor Arrigo Cicero, buongiorno, ricercatore all'Università di Bologna. Dottore, con lei faremo proprio la lista della spesa. Abbiamo anticipato più consumo di cereali integrali, cioè sottolineando l'integrale, grassi buoni, grassi polinsaturi, frutta e verdura, ma bisogna saperne di più, bisogna avere delle accortezze che ci aiutano veramente a portare in tavola gli alimenti giusti e a combinarli nel modo giusto per la nostra salute, soprattutto per ridurre quell'infiammazione che, come i nostri ospiti ci hanno spiegato, viene attivata dallo stress e che nel lungo, e direi anche nel medio, dottor Ongaro, periodo ci fa ammalare. Essere e benessere. Eccoci qua, dottor Cicero, io sono pronta. Allora, la lista Buongiorno a lei, grazie per essere con noi. La lista della spesa antistress comprende omega 3, grassi polinsaturi, sappiamo che sono componenti salutari, ma abbiamo bisogno, come anticipavo, di avere più informazione per sapere attraverso quali alimenti assumerli, come utilizzarli al meglio. Partiamo da loro. Sì, perfetto. Allora, partiamo da un presupposto intanto legato al fatto che di questi famosi omega 3 tante cose sono state dette e tante cose verranno ancora dette, e si è partiti dal presupposto che possono essere sicuramente un componente fondamentale della nostra dieta, che può influenzare in maniera molto positiva diversi ambiti della nostra salute. Però si è anche creata l'idea abbastanza specifica che sia sufficiente mangiare un po' più di pesce per consumare una dose adeguata di acidi grassi omega 3. Questo in realtà da un punto di vista teorico è anche vero, però da un punto di vista pratico, per come consumiamo noi il pesce, non è altrettanto vero. Nel senso che gli omega 3 tendono a essere concentrati in parte del pesce che noi usualmente non mangiamo, buttiamo, come per esempio, sì, che buttiamo via tipicamente, come la pelle, il grasso sottocutaneo, il cervello, gli occhi, che sono parti usualmente consumati in popolazioni che hanno avuto apparentemente grandi vantaggi dal consumo di omega 3, come la popolazione giapponese o gli Eskimo, e mentre nella nostra tradizione culinaria mangiamo la parte la parte muscolare, no? Il muscolo. Muscolare, sì. Sì, esatto. In quanto muscolo, fondamentalmente mangiamo più la parte proteica che non la parte grassa che contiene gli omega 3. Quindi noi già ci sforziamo a mangiarlo 2 o 3 volte alla settimana, utilizzando anche il pesce surgelato, perché il pesce costa, il pesce fresco, poi quello pescato costa parecchio, noi non, insomma, dobbiamo assolutamente fare i conti, ma lei ci sta dicendo che anche le 3 volte non bastano? Probabilmente non bastano, in tutto il fatto di consumare. Cosa facciamo pesce, allora, per prendere questi omega 3? Ma in realtà gli omega 3 noi li ritroviamo in diversi oli da condimento vegetali, per cui ve ne sono in piccola parte anche nell'olio extravergine d'oliva, però vi possono essere all'interno dell'olio di riso, ve ne è una piccola parte nell'olio di mais, per cui in realtà un po' negli oli di condimento sicuramente li troviamo, sì. Si ritrovano fra le carni sicuramente molto concentrati nella carne di maiale, nella carne suina, ma sono anche estremamente concentrati in alcuni frutti secchi, come per esempio noci, mandorle, nocciole, pistacchi, se poi non avessimo la dieta salati, o per esempio i pinoli, che peraltro sono un altro alimento molto valido ma molto caro. Quindi però, il dottor Ongaro, combinando tutte queste fonti di omega 3 dovremmo raggiungere la quota ideale, no? Sì, è presumibile che si raggiunga la quota ideale. Gli omega 3, tra l'altro, ricordiamolo, sono anche uno dei pochi ingredienti su cui e nutrienti su cui non c'è molta discussione la validità degli integratori, quindi non demonizziamo nemmeno l'uso in questo caso di qualche integratore di omega 3 quando sappiamo che non riusciamo ad assumere una quota sufficiente con l'alimentazione. Dottor Gualerzi, nel suo libro lei sottolinea il consumo di cereali integrali, corretto? Sì, certo, rappresentano, anche perché negli ultimi anni sono stati abbastanza demonizzati un po' per problemi di non comprensione tra ciò che veniva detto e ciò che veniva recepito, quindi si è pensato che la dieta, affinché fosse efficace, dovesse essere iperproteica. In realtà i cereali, i carboidrati contenuti nei cereali integrali sono assolutamente di prim'ordine e assolutamente utili nella dieta, e quindi obiettivamente privarci di un gusto a tavola come quello fornito dai cereali integrali mi sembra stupido, in quanto, come abbiamo già spiegato, darci qualche, anche all'interno della dieta, arricchirla di cose buone. Assolutamente. Un piatto di pasta, un piatto di riso, un piatto di farro, sono sicuramente pietanze gustose che, se assunte soprattutto nelle prime ore della giornata, cioè a pranzo, hanno un effetto anche di potenziare la nostra energia, di stimolare il metabolismo e di fornire nutrienti assolutamente validi. Dottor Cicero, ci aiuti nella scelta. Non tutti i cereali sono uguali, ce ne sono alcuni da preferire ad altri? Allora, diciamo che già lei ci ha dato la botta con gli omega 3, ci ha già dato una botta con l'omega 3 e adesso ci risollevi col cereale integrale. Allora, in realtà sicuramente di base, se il cereale è integrale o semi-integrale, ha un netto vantaggio rispetto al cereale raffinato, che sicuramente perde una certa quota di componenti nutritivi importanti, soprattutto di tipo legato alle fibre, e di per sé, quindi già quella è una scelta basale abbastanza semplice da attuare e che può dare dei grandi risultati. D'altra parte è anche vero che oggi c'è una forte attenzione al recupero di alcuni frumenti tradizionali, sì, che sono stati meno soggetti a coltivazione intensiva e che di conseguenza manifestano anche naturalmente un bilanciamento favorevole tra la componente carboidratica e la componente proteica. E quindi sono antinfiammatori, dottor Ongaro, perché noi dobbiamo ridurre l'infiammazione? Possono avere un'azione anche antinfiammatoria, che si connette poi anche con un altro grande capitolo, che è l'ossidazione, la riduzione della quantità di radicali liberi. E poi l'invecchiamento, insomma, è tutta una catena. Dottor Cicero, io vorrei i nomi di questi cereali, me ne dà qualcuno? Perché ad esempio il dottor Gualerzi ci ha detto l'aceto, prendete l'aceto di mele bio, poi prendete il tè bancia, dei cereali integrali facciamo una sorta di hit parade, quali sono quelli da preferire o da... Allora, diciamo che in linea di massima fra i cereali più che wheat bread, diciamo che sono migliori rispetto al cereale moderno più raffinato, non esiste nettamente una scelta se non per il fatto che della reperibilità del prodotto ed eventualmente del costo. Sicuramente il grano Khorasan, che è il grano orientale, uno di quelli meno intaccati dal punto di vista della coltivazione intensiva, ma sicuramente anche l'utilizzo per esempio del farro che ha citato il dottor Gualerzi prima è ci piace. Sicuramente molto allora, buono dal punto di vista palatale e ritrovabile, reperibile. Dottor Cicero, arrivano molti messaggi, alcuni che scrivono: ma ti prego, non c'è più pesce neppure negli oceani, che assurdità state dicendo, ok, e suggeriscono i semi di lino o altri semi. Dottor Ongaro, per gli omega 3, per chi decide di non consumare pesce, ci sono anche tante persone che sono vegetariane e quindi non consumano proteine animali, possiamo affidarci ai semi? Possiamo affidarci ai semi, che però non hanno i due acidi grassi omega 3 che sono di vitale importanza, l'acido icosapentaenoico ed docosaesaenoico. Sono questi gli acidi grassi su cui ci sono molti studi. I semi hanno un precursore di questo, l'acido alfa linolenico, che può essere utile perché in parte viene trasformato nei due acidi grassi più potenti e più importanti, però non è una garanzia, quindi non è esattamente la stessa cosa. Abbiamo Vito da Bari e Stefano da Venezia. Vito, forse ce la facciamo. Buongiorno Vito, volevo sentirla. Mi racconti rapidamente. Sì, rapidamente. Io ho 55 anni, 1,80 m di altezza, ero arrivato circa 90-91 kg di peso 5 anni fa. Sono sempre stato un multidisciplinare e allora mi sono rimesso a frequentare appunto le mie attività sportive. Sì. E all'inizio, nei primi 6 mesi, non vedevo il peso calare. Sì. Perché lavoravo, eccetera. Ho dato ovviamente un occhio e una cura all'alimentazione, riportandola a regimi normali, insomma, e devo dire che dopo i 6-7 mesi di lavoro quotidiano sono riuscito addirittura ad arrivare gradatamente sino a 75 kg di peso. Quindi un figurino, Vito, un figurino, come si dice. Grazie Vito, chiudiamo con questa testimonianza positiva, piccoli cambiamenti, perseveranza, voglia di farcela. Vi abbiamo dato le indicazioni per la dieta antistress, naturalmente potete riascoltare la puntata, scaricarla. Insomma, io voglio salutare il dottor Arrigo Cicero, il dottor Massimo Gualerzi per essere stati con noi, grazie. Grazie a voi dell'invito, grazie mille. Buona giornata. Ricordo il titolo del libro del dottor Massimo Gualerzi, Tutta Salute, il Super Salute. Il dottor Ongaro invece lo salutiamo con più calma, noi forse ci sentiamo il prossimo giovedì. Com'è? Per nuove puntate. Gianmarco Ferronato in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi è in redazione. Vi saluto, vi anticipo che domani parleremo di scrittura. Se siete buone penne, se amate compilare diari, tornate con noi domani dopo il GR delle 11. Buona giornata. Essere e benessere.